Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda la cronaca, siamo in attesa probabilmente verso le 18:10 di una conferenza stampa del ministro Tremonti, che dovrà illustrare la manovra nei suoi dettagli. Ce ne occuperemo anche noi a quell'ora. Manovra che si sta chiarendo, visto che ormai c'è stato il Consiglio dei Ministri, non cambia molto nell'impianto complessivo, quindi come viene spalmata nel corso degli anni. La parte più grossa, l'abbiamo ripetuto molte volte, e quindi 2/3 della manovra vera e propria sono nel 2013-2014. Per quello che riguarda l'incontro Berlusconi-Tremonti è iniziato, visto che ce lo chiedete in ritardo, verso le dopo le 16 era previsto per le 15. L'intervista di oggi del ministro Tremonti sul Financial Times: è finita l'era del deficit spending e quindi dell'aumento del deficit, e nel giorno in cui la produzione industriale segnala il centro di Confindustria è in stallo a giugno, meno 0,2% su maggio, e poi le dichiarazioni di Marchionne che adesso vi racconteremo. Oggi è anche il giorno dell'inflazione e abbiamo preparato una scheda su questo, perché è un'inflazione che sale a giugno, ma la cosa che dà più fastidio è che sale in tutti quei mezzi di trasporto che verranno utilizzati per le vacanze. E quindi già a giugno la botta c'è stata su traghetti, ferrovie, aerei, anche ristoranti, alberghi, tutto ciò che riguarda le vacanze degli italiani. Sarà un caso, ma ci si appresta ad andare in vacanza. Ancora, in apertura parleremo di un caso veramente sgradevole, fermo restando che è un caso, però insomma, 2-3 giorni fa è passata la legge che riguarda le quote rosa nei consigli di amministrazione, e oggi, o meglio ieri e oggi, lo trovate su molti giornali, il caso di questa fabbrica in provincia di Milano, dove hanno licenziato tutte le donne. Perché, con una motivazione che mi imbarazza quasi a raccontarla, sostanzialmente, che cosa ha detto questa azienda che si chiama Mavib di Inzago, a conduzione familiare, ha licenziato 10 su 30 dipendenti. Peccato che queste 10 dipendenti siano tutte donne. Perché questo? Perché così possono stare a casa a curare i figli. E tra l'altro hanno aggiunto, siccome le donne hanno uno secondo stipendio, c'è il primo stipendio del marito che è più importante. Vabbè, ne parleremo in apertura, perché è sbagliato abbassare la guardia su questo. Chiaro che dimostra una cultura dietro il ragionamento obiettivamente difficile da digerire. Cercheremo anche di metterci in contatto con la Mavib di Inzago. Vedremo, fino adesso abbiamo provato, non vogliono rispondere. E dopodiché i mercati, come sempre: più 1,40% in questo momento Milano, più 1,40% anche Parigi, più 1,1% Francoforte, più 1,25% Londra, più 1,20% l'America. Di nuovo bene i mercati, e anche l'euro in rafforzamento a quota 1,4513. L'accordo in Grecia sul maxi piano di rientro, manovra correttiva, è quasi un eufemismo. Tonifica tutte le borse e anche i titoli bancari. La Popolare di Milano più 4,50, Banco Popolare più 3,81, Intesa San Paolo più 2,5, Unicredito più 2,40. Ancora tra i titoli che vanno bene segnaliamo, sempre sul fronte bancario, Mediobanca più 1,53%. Di negativo c'è Atlantia, meno 0,81%, ma segnalo che va bene, oltre al settore bancario, e anche Azimut più 4,40, Impregilo più 3,5, Mediolanum più 3,1, Telecom Italia di nuovo forte più 2,80, Exor più 2,70, Fiat più 2,60, e visto che ne parliamo citiamo sempre sui titoli industriali anche Pirelli più 2,20% e A2A più 2%. Bene oggi Mediaset più 2,30%, ha presentato i palinsesti, e ancora Finmeccanica più 1,90, Buzzi Unicem più 1,80, come Steam Microelectronics, Tods più 1,80, anch'essa Mediobanca più 1,6%. I migliori e i peggiori: Telecom Italia Media risente, anche se non come in mattinata, della rottura delle trattative con Santoro, perde adesso il 2%, è arrivato a perdere il 3% il titolo. Tra i peggiori in assoluto Milano Assicurazioni, meno 14%, tra i migliori in assoluto Banca Generali, più 10% in questo momento. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora rapidamente le notizie in breve. Gli altri mercati, volete sapere già di petrolio e oro. Devo dire, l'oro è fermo ormai da settimane a un livello molto alto, 1511 dollari al barile. Il petrolio a 95,2 dollari. È schizzato l'Euribor, il tasso interbancario che si utilizza per calcolare la rata dei mutui a tasso variabile, è all'1,54%, e ieri valeva l'1,53%. La cosa interessante sul fronte internazionale invece è che, se io facessi la domanda, anzi facciamo così, se io vi chiedessi qual è il paese che nei primi tre mesi dell'anno è cresciuto di più al mondo, si accettano risposte al 349-238-6666, fra 10 minuti sciolgo l'enigma. Sì, non è l'Italia, lo sappiamo. Nel frattempo, negli Stati Uniti si è scoperto che i compensi medi dei chief financial officer, quindi dei responsabili finanziari delle società quotate in borsa, sono saliti nel 2010 di quasi il 20%, più 19%. Via libera oggi Atene anche da parte del Parlamento greco al piano di attuazione del programma di austerità, un secondo passaggio. Nel frattempo il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha fatto sapere che i contributi volontari delle banche tedesche ammonteranno a 3 miliardi e 200 milioni di euro, e l'accordo raggiunto fra Berlino e le banche tedesche in sostanza ricalca il piano francese nell'ottica di coinvolgere volontariamente i creditori privati nel nuovo salvataggio di Atene. Ancora, la differenza tra i nostri BTP e quelli tedeschi è tornata per fortuna sotto il 2%, lo spread cosiddetto è sceso all'1,90%, 190 punti, questo dopo il via libera del Parlamento di Atene al piano di attuazione del programma di austerità e dopo l'accordo tra il governo di Berlino e le banche appunto tedesche di cui parlavamo un secondo fa. Nel frattempo, volete sapere della manovra? Ripeto, faremo un ampio approfondimento sulla manovra alle 18:15 domani. Sulle 24 ore esce con la prima di tre puntate 16 pagine ognuna sulla manovra e tutti i dettagli, quindi domani sul quotidiano. Il Cobas del latte, allora, riconosciuta l'associazione per delinquere al processo d'appello che si è chiuso oggi a Torino per i cosiddetti Cobas del latte. 54 imputati. Riguardava il meccanismo che, secondo l'accusa, permetteva di eludere in maniera irregolare il prelievo sulla produzione fuori quota. La pena più elevata è stata inflitta a Giovanni Robusti, ex europarlamentare della Lega Nord, 4 anni e 6 mesi di carcere. Tra l'altro, nel primo processo non fu applicata l'associazione a delinquere, quindi questa volta la Corte d'Appello ha ritenuto che vi fosse anche, oltre al semplice reato, l'associazione a delinquere sulle quote latte. Dopodiché questo fa specie nel giorno in cui la manovra, quella che appunto di cui parleremo alle 18, contiene una norma che dispone non più il rinvio sulla riscossione delle multe quote latte, ma lo stop to court, quindi non devono essere più riscosse queste multe. Allora io dico, perché? Perché si va a stringere sugli studi di settore, a stringere sull'evasione, e poi chi ha evaso, chi ha commesso un reato beffando gli agricoltori che invece le quote latte o le hanno rispettate o se le sono comprate agli altri agricoltori deve essere premiato? Pesano così tanto sti voti? Ancora una notizia: i contratti dopo l'accordo storico tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria sugli accordi contrattuali e sulla forza del contratto aziendale rispetto a quello nazionale e sulla rappresentanza sindacale interna all'azienda. Oggi è tornato il leader della FIOM, Maurizio Landini, ha chiesto che venga sospesa la firma della CGIL fino a quando non c'è la consultazione degli iscritti, quindi è scontro forte tra Camusso e Landini. Nel frattempo sui contratti però un'altra doccia fredda è arrivata oggi, ma dal numero uno della Fiat, Sergio Marchionne. Ha detto Marchionne: l'accordo raggiunto tra Confindustria, CGIL e CISL e UIL è sicuramente un risultato di grande importanza perché ha affrontato alcuni nodi in materia di rappresentanza di contratti, ma non è sufficiente per garantire la permanenza di Fiat all'interno della Confindustria. Se non ci saranno nei prossimi mesi ulteriori passi che consentano di acquisire quelle garanzie di esigibilità necessarie per la gestione degli accordi raggiunti a Pomigliano, Mirafiori e Grugliasco, la Fiat, con due lettere distinte come Fiat S.P.A. quindi camion e trattori e Fiat Industrial e Fiat S.P.A. come auto e Fiat Industrial come camion e trattori, la Fiat uscirà da Confindustria. 349-238-6666 per i vostri sms. Vedo già delle battute sulle quote latte. Lo sanno tutti, dunque, no, non lo sanno tutti che è il paese che ha avuto il maggior tasso di crescita al mondo nei primi tre mesi. Alcuni hanno letto le agenzie, evidentemente, altri no. C'è chi ha scritto le Filippine, la Corea, il Canada, il Brasile, la Serbia, ancora il Vietnam, la Thailandia, l'India, l'Australia, la Cina, l'Angola, la Polonia. Alcuni hanno indovinato, è la Turchia. La Turchia, piaccia o non piaccia, nei primi tre mesi dell'anno ha registrato la crescita del PIL più alta al mondo, più 11% da gennaio a marzo, il PIL turco. E ne fa appunto l'economia al mondo con la crescita più veloce, il solo paese nei primi tre mesi dell'anno ad aver avuto un incremento a due cifre. Adesso primo tema, e mi riferisco purtroppo all'inflazione. Non è tanto il dato complessivo 2,7%, che comunque è il dato di inflazione più alto dal 2008, dal novembre 2008, quindi da quando la crisi era appena iniziata, ed è in aumento rispetto al 2,6% di maggio. Ma ripeto, non è questa la cosa che fa più specie dell'inflazione nel mese di giugno. La cosa che fa più specie è che a creare questa inflazione hanno contribuito non i consumi interni, non le spinte esterne, ma i prezzi. Voi direte: i prezzi dei trasporti. Voi direte: beh, certo, c'è il petrolio. C'è anche il petrolio, però obiettivamente lasciateci essere un po' sospettosi, perché sono aumentati tutti quei trasporti che serviranno a milioni di italiani per andare in vacanze. A questo punto ci si chiede anche come potrà uno andare in vacanza. A guardare i dati verrebbe da pensare che, come i personaggi di Jules Verne, per gli spostamenti estivi rimane solo la mongolfiera. E forse lo ha pensato chi a giugno ha viaggiato per raggiungere la meta delle vacanze, visto che gli aumenti hanno colpito tutti i mezzi di trasporto. Innanzitutto i biglietti aerei, saliti rispetto a un anno fa del 14%. E chi ha scartato l'aereo per paura di volare, forse il prossimo anno cercherà di superarla, visto il conto salato dei traghetti, più 53% in 12 mesi. Nessun beneficio nemmeno dalle quattro ruote. In un anno benzina e gasolio sono saliti rispettivamente del 12% e 14%. Inoltre la tariffa RC Auto è aumentata del 5,4%. È andata invece un po' meglio a chi ha scelto il treno con i biglietti in rialzo solo dell'8,4% sull'anno prima. Ma chi pensava che una volta a destinazione ci sarebbe stata tregua per il portafoglio è rimasto deluso. Alloggiare presso pensioni a giugno è costato il 2% in più rispetto a maggio. Nessun sollievo nemmeno per chi ha optato per i campeggi, con le tariffe aumentate di oltre il 14% su maggio. E le sorprese non sono finite nemmeno in spiaggia. Per il lettino e ombrellone a giugno si è pagato oltre il 4% in più rispetto a 12 mesi fa. Infine, al di là del capitolo viaggi e vacanze, sulla corsa dei prezzi hanno influito le spese per abitazione, acqua, elettricità e i prodotti alimentari. Unico freno, le comunicazioni. Sì, certo, crescono anche abitazione, acqua, elettricità, però insomma, veramente, le compagniere più 14%, i campeggi più 14%, adesso non potete dire che i campeggi sono colpa del petrolio, il lettino per l'ombrellone, anche qui colpa del petrolio, più 4% rispetto a un anno fa, e ancora, polizze RC auto più 5,5%, pure qui c'è il petrolio di mezzo, il treni più 8%, adesso che io sappia un po' vanno a diesel, c'è l'elettricità, ma sempre di petrolio, di monocolpa sempre petrolio. Poi il caso dei traghetti più 53%, l'abbiamo affrontato molte volte, e il caso dei biglietti aerei. Sull'RC auto abbiamo anche alcune dichiarazioni, anzi sentiamole subito, visti i rincari, viste le polemiche continue. Il nostro Jacopo Matano ha raggiunto il presidente dell'ANIA, cioè della compagnia di assicurazione, dell'associazione che unisce le compagnie di assicurazione, Fabio Cerchiai. Se non scendono i costi per le imprese, non possono scendere i prezzi. Abbiamo dibattuto a lungo in sede della Fondazione Forum ANIA Consumatori tutti gli interventi proponibili all'autorità governativa e di vigilanza per poter incidere sui costi del sistema, molti dei quali sono generati da inefficienze. Quindi è due volte virtuoso incidere sui costi del sistema. Significa eliminare inefficienze e creare il presupposto perché possano scendere anche i prezzi. E sempre al microfono il nostro Jacopo Matano, anche Francesco Avallone di Federconsumatori, che ha illustrato le proposte dei consumatori alle compagnie di assicurazione. Uno dei punti cruciali del nostro documento è il divieto di cedere i sinistri, perché non è tanto la frode che è diciamo così perseguibile, perché ormai c'è anche in Parlamento l'agenzia antifrode, ma c'è una cosa molto grave che è il gonfiamento dei sinistri, cioè un sinistro che vale 100 attraverso meccanismi che sono diciamo borderline aumenta enormemente il costo del sinistro. Questo incide sulle tariffe. Senta, tra le varie proposte ce n'è una che va nel senso di uno sviluppo tecnologico, come ad esempio le scatole nere, ma non ci vorrà parecchio tempo? No, noi crediamo che se da oggi un provvedimento legislativo obblighi le società automobilistiche di diciamo installare immediatamente alla base, non dopo, il sistema delle scatole nere, poi sarebbe, se si fa di serie, questo sarebbe un risultato straordinario, perché si comincia veramente a sapere la dinamica del sinistro, e sapere la dinamica del sinistro significa pagare anche il giusto. Sì, lo so, vedo molti messaggi su questo, c'è chi scrive insomma con il low cost si va a Malta, a Barcellona, a Berlino, da Treviso, da Venezia con 50-70 euro, da Venezia a Firenze in seconda classe, anzi Treviso a Firenze in seconda classe 90 euro, ma non è solo diciamo il raffronto con il low cost, è l'aumento dei prezzi che ci lascia particolarmente perplessi. Ripeto, alcuni sono da agganciarsi al prezzo del petrolio, ma altri no. E vale per appunto ristoranti, alberghi, cioè le pensioni hanno fatto più 2% rispetto a maggio. Sappiamo tutti che aumentano i prezzi delle pensioni, ma sui campeggi è diverso il calcolo, anche perché sono aumenti molto forti, con la conseguenza, per sdrammatizzare, visto che oggi è anche la puntata intensa, e il rischio è di fare la fine di un duetto che ogni tanto vi proponiamo, il mitico Principe de Curtis. Una bella ceretta gustosa e succolenta. Beh, mi ordini. Antipasto. Caviale e salmone. Caviale e salmone. Oh, poi un bel consumé ristretto, molto ristretto. Etto. Dentro un uovo. Un uovo? Un uovo, è poco un uovo. È poco, sì. Metto due uova. Due uova. Oh, Battista. Dimmi un po', dimmi la verità. A pesce, come stiamo? Male, lo so. E sa, non è stagione. È temporale, eccetera, eccetera. Beh, allora questo pesce me lo sostituisci col pollo. Pollo? Hai capito? Il pollo, patatine fitte, con due patatine fitte. Episodio di stagione. Pone. E formaggio, eh? Ah. Come formaggio? Gruyère. Gruyère, autentica, autentica, autentica. Vizzera, vizzera, sì, vizzera. Ho poi porto un po' di dolce. Dolce? Che cosa? Dolce, crème caramel, eh? Crème caramel. Crème caramel. Frutta? Frutta? Esotica. Esotica, ananas. Ananas. Esotica, ananas. Ho tutto questo, io lo voglio innaffiare. Lo voglio innaffiare una bella bottiglia di champagne ghiacciata. Champagne francese. Francese, piper. Piper. Portami una bella piper, va. E i soldi? Quali soldi? I soldi. Per dare che cosa? Per comprare tutta questa roba. Oh, ma insomma, c'è una volta, ma allora è l'abitudine che hai preso. È una maraviglia. E tu ogni volta mi chiedi i soldi. Ma insomma, allora, io ti ho messo su un piedistallo, l'ho messo. Allora non ci vuoi stare sul piedistallo che ti ho messo? Scusa, anticipa tu, cosa vuoi da me? E io non c'ho un centesimo, signor Barone. Come c'ho un centesimo? C'ho un centesimo. E allora che mangio questa sera? Senti? La solita mortadella. Sono 6 mesi che mangio mortadella. Eccola qua, signor Barone. L'abitudine di dover avere anche i soldi per pagare. Vabbè, abbiamo un po' scherzato con Totò perché adesso il tema torna serio, serissimo, a mio avviso, insomma, quasi imbarazzante. Licenziate solo le donne, così stanno a casa a curare i figli. Non c'è male nel 2010, nel 2011 anche. Ed è successo purtroppo veramente, è successo alla Mavib di Inzago, è intervenuta anche la provincia, la FIOM, su 30 dipendenti licenziati 10, questo insomma è già un dramma ma può capitare, il problema è che solo donne, perché così possono stare a casa con i figli, recita testualmente, e tra l'altro possono guadagnano comunque il secondo stipendio, non il primo, e quindi è più importante lo stipendio del marito. Allora, sentiamo se ci risponde Mavib, perché è tutto il giorno che la chiamiamo. No, volevo capire anch'io. Tutto il giorno che non risponde. Motori elettrici per impianti di condizionamento. Qui squilla. Tanto saluto la presidente di Federmanager Minerva Elena Vecchio. Buonasera, presidente. Buonasera. Aspettiamo. Per la voce, no, non si preoccupi. Con rispetto della stagione sono raffreddatissima. Capito. Mavib non risponde. Non è un caso, ritengo. No, vabbè, adesso magari. Pronto? Niente. No, perché stavo cercando il. Siccome è un'impresa di conduzione familiare, magari ci sono delle ragioni che ci sfuggono, e ne volevo parlare con Ivaldo Colombo. Che è il punto. Pronto? Sì. Pronto? Niente, mi sa che magari teniamolo sotto, perché vediamo se prima o poi rispondono. Allora, mi faccia essere cinico. Sì. Continuiamo a sentire sotto tanto la telefonata, magari li richiamiamo. Sì. Un'azienda, è chiaro che insomma uno può pensare come vuole, però può fare le scelte che vuole. Ci sono 18 donne e 12 uomini su 30 dipendenti e dice, ecco, giustamente un ascoltatore fa la battuta, forse al centralino c'era una donna, è per questo che non rispondono più, però, e può dire, vabbè, preferisco licenziare le donne perché da un lato loro possono stare a casa con i figli, dall'altro l'altra motivazione è che spesso loro hanno il secondo stipendio, quindi intacco meno il budget familiare. È una libertà di scelta. Intanto sentiamo sempre sotto il telefono che squilla. È una libertà di scelta o no? Parla con me, rispondo. Sì, io. Parlo con lei. Sì, allora, io credo che è una libertà di scelta sicuramente. Spesso, ahimè, questa scelta viene fatta, cioè vengono assunte le donne anche perché in genere hanno dei salari, il gap salariale è abbastanza evidente. E questo è un motivo. Sicuramente questo non succederebbe se il nostro governo mettesse in atto delle vere politiche per il lavoro femminile. Noi da tempo abbiamo avanzato delle proposte riguardanti una premialità da assegnare a tutte quelle aziende che mettono in atto delle politiche del lavoro che premiano le donne, e quindi sulla base di parametri oggettivi, percentuale di donne assunte, percentuale di donne che accedono a percorsi formativi, percentuale di donne, quindi dei dati riscontrabili, sulla base di questi dati queste aziende virtuose potrebbero avere dei premi. Allora probabilmente le aziende si comporterebbero un po' meno in questa maniera. No, perché le dico, poi magari mi risponde dopo il metro, la pubblicità, l'obiezione che arriva dagli ascoltatori è, vabbè, ma se è un'azienda privata, tra l'altro a conduzione familiare, quindi ha una governance molto semplice, può fare quello che vuole. Uno può anche decidere che diciamo, tiene solo i giovani o tiene solo quelli che hanno più di 50 anni, cioè vorrei capire... Per carità, tutto è possibile, siamo in un paese democratico, però io ripeto che sicuramente non viene fatto nulla per evitare che succedano queste cose. È chiaro che c'è una discriminazione nei confronti delle donne sul lavoro, ma questo, voglio dire, credo che sia lampante anche di tutti, però poi quando bisogna allungare il periodo di pensione si pensa subito alle donne, lasciando perdere che poi la donna in genere arriva al massimo a 20-22 anni di percorso lavorativo perché ha subito problemi, non ha avuto nessun appoggio di tipo sociale, insomma tutte però, le cose. Allora, facciamo così, dopo il metro io vorrei sapere da lei se allora, è giusto allungare l'età pensionabile alle donne e portarla verso un livello maschile, oppure allora trattiamo le donne in maniera diversa e allora lì, non mi risponde, ecco, mi risponde dopo il metro, oppure le trattiamo in maniera diversa per tutti insieme di motivi, e allora però anche il ragionamento di un privato che dice, vabbè, proprio perché hanno un trattamento diverso, io se devo tagliare, è brutto tagliare, taglio soprattutto la parte femminile. La risposta dopo il metodo e la pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms, poi sentiamo anche cosa ha fatto la borsa, che ha comunque chiuso con un rialzo dell'1,60%. ...17:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, mi faccia capire una cosa, dottoressa Vecchio. Come scrivono anche molti ascoltatori, nel caso della fabbrica in questione non era un problema di quote, Rosa, perché su 30 dipendenti 18 erano donne. Certo. Alcuni dicono che non si può fare la legge 223 del 91 in caso di licenziamento collettivo per aziende con più di 15 dipendenti, non permette licenziamenti con percentuali di donne così alte. Però il tema mi sembra anche un altro: devono essere trattate diversamente al lavoro e quindi anche sull'età pensionabile, quindi con maggiori garanzie per la maternità e quant'altro, e allora lì poi il ragionamento, certo, le trattiamo in maniera diversa e quindi se devo fare gli esuberi purtroppo con dolore perché la fabbrica non va bene, li punto più sulle donne, oppure parità totale anche negli esuberi però anche nell'età pensionabile? Allora, la maternità credo che sia un bene sociale. No, la maternità infatti sociale. Non l'ho neanche citata, ci mancherebbe. No, per carità, però ci mancherebbe. Tutta la sperequazione avviene a causa della maternità, perché nessuno riconosce che la maternità sia un bene sociale, una ricchezza per il paese, questo non viene assolutamente riconosciuto. Purtroppo molte donne sono poi costrette anche all'assenteismo perché sappiamo benissimo il nostro paese non offre nessun tipo di supporto alla donna e di sostegno, quindi non è che le donne debbano essere privilegiate, ma dovrebbero esserci, cioè non dovrebbe essere discusso neanche il punto che ci vuole un sostegno da un punto di vista pubblico a tutto quello, tutto il lavoro che la donna svolge, perché sappiamo bene che non sono solo i bambini, sono anche gli anziani. Quindi non è che io dico percorsi preferenziali alle donne, assolutamente, nessuna di noi donne lo dice, ma dice dateci un aiuto. A quel punto, se noi siamo allo stesso piano, possiamo essere sullo stesso piano in positivo e in negativo. Quindi anche l'allungamento dell'età pensionabile mi va bene, ma io devo poter essere messa allo stesso livello e devo avere le stesse possibilità che ha un uomo. Questo non avviene, sappiamo benissimo, nel nostro paese. E quindi lei suggerisce degli incentivi, quindi non delle penalizzazioni, ma degli incentivi. Ma rendere veramente alla pari la possibilità di svolgere il proprio lavoro sia per gli uomini sia per le donne, cioè rendere veramente il tutto equiparato. Mi va benissimo che si equipari l'età pensionabile, ma qualora si partisse da una situazione... Senta, ma pari. Il ragionamento che siccome in questi casi le donne avranno un secondo stipendio e quindi fai meno danni a una famiglia, è bruttissimo, è cinico. Non è sempre vero, sempre vero. Io le parlo dal sud, dove magari è più frequente che sia veramente il secondo stipendio, ma ormai lo sappiamo benissimo che l'Italia di oggi non è assolutamente vero, sono due stipendi che servono tutti alla famiglia, non è un... No, ho capito, ma il ragionamento non la convince. Questo è anche quello principale. Va bene, vedremo. Io faccio solo notare a chi scrive, perché io, ripeto, faccio sempre l'avvocato del diavolo con gli ospiti, quindi cerco... Certamente. Di vedere l'altra parte. Però faccio notare che i dati sono abbastanza inequivocabili. Le donne manager in Italia sono il 12% del totale, superate da Germania 37,5%, Gran Bretagna 35%, Francia 30%, ma anche dalla Grecia e dalla Turchia, 22% certo. Da Turchia e il motivo è 15% dalla Grecia. La donna è penalizzatissima all'interno dell'impresa, già perché comunque la meritocrazia in Italia è sempre un optional, non è... Vabbè, non solo per voi, non solo per noi, appunto, no, ma questo noi lo portiamo avanti come discorso di Federmanager, proprio la meritocrazia per tutti, uomini e donne. Secondo, perché le donne sono penalizzate dal doversi sobbarcare dei compiti, soprattutto in famiglia. Infatti da un'indagine che noi abbiamo svolto sulle donne, sia come Federmanager, poi ne abbiamo svolta un'altra come Assidai sullo stress da lavoro, risulta proprio questo, che il maggiore carico è sulla donna all'interno della famiglia, e quindi questo provoca poi un rallentamento. Anche perché in Italia si dà peso ai tempi di lavoro, ai tempi di presenza in azienda, cioè ci sarebbe da discutere fino a domani, credo. Quindi lei comunque, ho capito la vostra formula. Si dovrebbero fare delle azioni positive, sì, non in negativo, ma diciamo, trovare una forma premiale per chi assume anche le donne. Certo. E degli incentivi per degli asili nido aziendali. Ah beh, guardi, di questo abbiamo parlato mille volte. Insomma, sono cose talmente scontate che veramente... Sì, che però non si fanno. Tra l'altro è dimostrato da una letteratura estesissima che queste forme che permettono alle madri di conciliare famiglia e lavoro, oltre che essere un bene sociale, perché poi non ci si può lamentare che non ci sono più italiani che vanno a lavorare e la manodopera viene dall'estero e siamo il paese con la più bassa natalità, esatto, in Europa, esatto, ma oltre a questo, oltre al bene sociale, c'è anche la produttività in azienda, dimostrato che laddove ci sono asili e strutture all'interno delle imprese, la produttività e quindi il costo per l'impresa cresce è più basso. Perché è ovvio che se una madre o anche un padre... C'è una serenità mentale. Certo. No, ma ci sono anche dei tempi di permesso che non vengono sfruttati. La ringrazio molto. Lo squillo. Supportarci. Ma noi supportiamo tutti, non solo le donne, ci mancherebbe. Grazie a lei, grazie alla presidente di Federmanager Minerva e quindi Elena Vecchio. Continuiamo a squillare il telefono per l'azienda, appunto, che ha avuto questa brillante idea. Noi cerchiamo Ivaldo Colombo, ma insomma non risponde la Mavib, questa Mavib di Inzago. Traffico e poi la borsa. La borsa quindi, più 1,6% Milano, più 1,5% Parigi, più 1,1% Francoforte e più 1,40% Londra. L'America più 1,1% in questo momento, euro quota 1,4516. Bene oggi tutti i bancari in Europa, dopo da un lato il via libera del Parlamento greco anche al secondo voto sul piano di risanamento e dall'altro all'accordo governo tedesco con le banche, 3 miliardi 200 milioni di, diciamo, iniziativa volontaria delle banche per i prestiti alla Grecia. Tecnicamente non funziona proprio così, ma lo abbiamo già spiegato, adesso sarebbe troppo lungo. Bene, i gruppi bancari, la Popolare di Milano guadagna il 4,76%, il Banco Popolare più 4,30% dopo la presentazione del nuovo piano industriale, che vede l'utile netto a 600 milioni nel 2013 e a 930 milioni nel 2015, dividendo al 40% distribuito, cioè l'utile netto per il 40% diventerà dividendo per gli azionisti. E Saviotti, il numero uno, ha escluso la possibilità di procedere con un altro aumento di capitale dopo quello da 2 miliardi effettuato a inizio 2011. Bene, comunque, oltre alla Pop Milano e Banco Popolare anche Intesa San Paolo più 2,80, Unicredito più 2,70, e ancora Azimut più 4,5%, Monte dei Paschi più 1,70%, Ubibanca più 1,70%. Ancora bene in pregiro più 3,80%, Mediolanum più 3%, Fiat più 2,80%, Mediaset all'indomani della presentazione dei palinsesti più 2,60%, inizialmente era debole il titolo, Telecom Italia più 2,60%, Pirelli più 2,20%, Exor più 2,1%, Tods più 2,1%. Tra l'altro in pregiro, che a 2,16€, sale anche per essersi aggiudicato il contratto per realizzare la metropolitana di San Francisco attraverso la controllata americana SA Haley. Per cui bene anche in pregiro su questa notizia. Chi perde oggi? Poca roba. Atlantia meno 0,80, Tenaris meno 0,40. Sulle montagne russe, Fondiaria Sai, nel senso che il titolo guadagna lo 0,80%, ma la controllata Milano Assicurazioni perde, è il peggior titolo in assoluto, il 16,5%, e ancora la Premafin Finanziaria invece guadagna il 9,90%. Molto bene oggi anche Banca Generali. Tra l'altro, volete sapere di Pirelli? Beh, insomma, c'è una stima su una crescita dei mercati emergenti nel settore pneumatici. Il 70% dell'utile operativo di Pirelli arriva dai mercati emergenti e quindi il mercato scommette su questo. L'addio di Michele Santoro, anzi la rottura delle trattative tra Michele Santoro e la 7, ha penalizzato Telecom Italia Media, che è arrivata a perdere fino al 3%, la chiusura è molto più bassa, cioè molto inferiore, meno 1,3%. Ho fatto io il commento di borsa e me ne scuso, perché vorrei oggi fare il punto non tanto sulla giornata ma su metà anno, il giro di boa, come si chiama con una frase fatta. E allora facciamo il giro di boa della borsa con lo stacco della borsa. Vedo molte domande. Sì, il governo ha aumentato di 4 centesimi le accise 3 giorni fa per i soldi per trovare le risorse per lo sbarco dei clandestini dal Nord Africa, e domani le aumenta di un altro centesimo sulla benzina perché per trovare i soldi per il FUS, per il Fondo Unico sullo Spettacolo. A chi dice, ma non vi rendete conto che in quell'azienda, la Mavib, sono in difficoltà? Certo che ce ne rendiamo conto, se licenzi e devi ridurre l'organico da 30 a 18 dipendenti, il problema non è questo, qui ci sono moltissime imprese in difficoltà. Il problema è perché licenzi solo le donne, si può ragionare di questo, si può parlare di questo, secondo noi sì. Moria Longo, buonasera. Buonasera a tutti. Che non è una donna, ma è chi scrive di borsa e dei 6 mesi di borsa. Allora, respiriamo oggi, invece di fare il commento solito, cronaca day by day, come si sono mosse nel 2011 le borse. Francoforte, Londra, Madrid, Milano, Atene, se vogliamo farci del male. Atene. Prego, si è mossa solo in una direzione. Ah beh. Diciamo che le borse in questi primi 6 mesi dell'anno si sono mosse con un unico faro, diciamo, un unico grande motivo che le ha guidate, cioè il problema del rischio stati. Ovviamente il tema della Grecia, che in questi giorni, da ieri, si è allentato, comunque ha trovato una soluzione temporanea, comunque sta dando fiato alle borse, ha ovviamente fatto bene alle borse, ma fino all'altro ieri era il grosso problema e comunque lo sarà anche in futuro perché non è certamente risolta la situazione. Quindi l'andamento delle borse nei 6 mesi rispecchia fortemente questo problema del rischio stati, e non è un caso che proprio la borsa migliore in Europa sia quella di Francoforte, che da inizio anno guadagna il 6,66%, la borsa di Londra più 0,72%, la borsa di Parigi più 4,65%, la peggiore ovviamente è quella di Atene, ma sono andate male anche la borsa svizzera meno 3,88%, la borsa di Stoccolma, la borsa di Amsterdam meno 4,26%. Quindi nulla c'entrano queste però sui no, debiti. Non c'entrano nulla, e difatti il punto è che l'andamento delle borse ha rispecchiato sì il problema del rischio stati, ma ha dato anche qualche situazione paradossale. Per esempio, quelle che dicevo adesso, cioè borse che sono scese senza avere problemi del rischio stati, come per esempio quella olandese, oppure borse che, come quella di Madrid, sono salite pur avendo in via comunque ridotta rispetto a Spagna, rispetto a Grecia, Portogallo e Irlanda, comunque un problema di rischio stato. Ma anche sul settore delle banche, per esempio, ci sono delle situazioni paradossali. perché le banche, sappiamo tutti, sono le più penalizzate dall'eventuale default, comunque ristrutturazione del debito greco. Certo. Per cui è ovvio che siano quelle, è uno dei settori che nei sei mesi ha perso di più. Ovviamente le banche greche hanno perso il 22,84%, sono le più penalizzate, poi quelle di Lisbona. 22,8%. Sì, poi quelle di Lisbona, quelle di Milano, hanno perso, il dato è a ieri, non a oggi, dell'11,7%. Banche italiane. Italiane, sì. La cosa curiosa, per esempio, è che sono in positivo le banche francesi del 3,26%. Dico una cosa curiosa perché le banche francesi sono le banche più esposte verso la Grecia, con 53 miliardi di titoli di Stato. A dimostrazione che ogni tanto sonnecchiano anche i raziocini di chi investe, perché se non sì, si diciamo capisce. Che più che sonnecchiano, io penso che ci sia una speculazione che si muova in questo periodo per compartimenti stagni. Allora vendo le banche italiane non tanto perché sono esposte sulla Grecia, ma perché sono italiane. Compro le banche francesi, sì, sono esposte sulla Grecia, ma non ci interessa tanto. Le compro perché sono francese. Ecco, credo che sì, il mercato stia un po' ragionando, diciamo, in questo modo. Da bambini, perché alla faccia del mercato analitico che guarda i settori, i fondamentali di bilancio, se, l'analisi se si tiene tecnica. Conto, se si tiene conto che più del 60% degli scambi di borsa sono fatti da computer, non da esseri umani. Per cui. Sì, qualcuno però sui computer li accende. Non è che sì, sia, ogni tanto andrebbero anche spenti, diciamo così. Però dico, è interessante notare che le banche francesi, che sono esposte per quasi 50 miliardi nei confronti delle banche greche, cioè hanno prestato soldi alla Grecia o allo Stato greco o alle banche greche, vanno bene. Le banche italiane, che hanno un'esposizione bassissima nei confronti dello Stato greco, siamo intorno ai 3 miliardi, sì, vanno molto male, meno 11%, perché sono italiane. Atene quanto è sono nel suo complesso? Allora, la borsa di Atene... 10. Mi trovo un attimo in difficoltà, ce l'ho qui un attimo. 10%? 10%, sì, 10% qualcosa per cento. New York invece? New York è positiva, fa più 7% il Dow Jones e più 4,90% lo Standard & Poor's, però ovviamente lì non c'è assolutamente il tema del rischio Stato, anche se negli Stati Uniti i problemi ci sono assolutamente, però sono ancora visti nonostante tutti i problemi che hanno come la paese. La miglior borsa tra quelle più conosciute resta quindi Francoforte? Sì, in Europa sì, assolutamente sì, che è più 6,66% e dimostra anche qui come i Bund, cioè i titoli tedeschi, sono presi Asia come bene a rifugio. In Asia sono abbastanza negative perché abbiamo l'effetto tsunami, certo. Tokyo meno 4%, Hong Kong meno 2,7% in generale l'Asia perde il 2,89%. Grazie Morello Longo, e ci scusino gli ascoltatori, ma oggi volevamo fare una borsa un po' diversa, poi da domani torniamo a fare il commento quotidiano. È importante anche fare il punto ogni tanto dopo i sei mesi. Grazie Moria Longo. Il grazie GR, poi adesso dopo il GR iniziamo la cronaca a raccontare che cosa è uscito dalla manovra a questo punto definitiva, anche con le ultime novità, l'eventuale aumento dell'IVA rimandato al 2013, Super Bowl e quant'altro. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Fra poco arriveremo anche a fare un aggiornamento, visto che ancora non c'è la conferenza stampa del ministro Monti sulla legge finanziaria. Nel frattempo vi ricordo che, come facciamo ogni giovedì, domani il Sole 24 Ore uscirà con la guida. Venerdì 1 luglio la guida si chiamerà La scelta del prestito, e quindi tutte le forme di credito a consumo e le nuove regole a tutela dei consumatori, e quindi come riuscire a ottenere dei prestiti senza però mettersi in condizioni di difficoltà, appunto La scelta del prestito in edicola in omaggio con il Sole 24 Ore domani. E poi, visto che parlavamo di borse e di imprese, oggi bilancio 2010 del gruppo Salini Todini, terzo gruppo italiano nel settore delle infrastrutture. €1,100 miliardi di euro, la produzione 2010 in crescita del 71%, €1,120 miliardi di euro, più 71% il fatturato rispetto al 2009. E l'utile pretasse ante imposte è di €55 milioni, che vuol dire l'utile netto a €31 milioni di euro. Complimenti per un gruppo che ha 13.000 dipendenti, opera in 40 paesi. Dottor Pietro Salini, amministratore delegato del gruppo Salini, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, mi dica intanto che cosa ha contribuito, estero o Italia? Poi veniamo a un suo commento sugli investimenti infrastrutturali in questo paese. Beh, diciamo la nostra forza in questo momento è ovviamente quella di essere molto proiettati all'estero, l'ha appena detto, operiamo in circa 40 paesi e quindi grazie a Dio riusciamo a superare anche eventuali congiunture favorevoli come in questo momento il nostro paese ha sulle infrastrutture soprattutto. Ecco, ma lei da operatore, adesso lasciamo stare la manovra finanziaria che anche noi stiamo cercando di capire esattamente tutti i passaggi, i dettagli previsti, ma secondo lei in questo momento che cosa si potrebbe fare per rilanciare il settore infrastrutturale? Ne abbiamo parlato con diversi operatori, c'è chi suggeriva l'uso più forte del private, del project financing, quindi l'ingresso dei privati, insomma è chiaro che quello è un volano molto forte per far ripartire i consumi, la domanda interna e l'ANCE denuncia cali negli investimenti delle opere pubbliche, prego. Ma diciamo chiaramente nessuno ha una ricetta magica perché chiaramente è un fenomeno molto complesso, però dobbiamo registrare, mi sentite? Sì, molto bene. L'unico paese che ha questo problema oggi, quindi evidentemente qualcosa di molto specifico. È troppo facile attribuire la colpa solo alla mancanza di denaro, perché come lei ha appena ricordato ci sono altri strumenti come il project financing, come le concessioni che potrebbero in qualche misura, aprendo il mercato delle infrastrutture ai privati, trovare le risorse necessarie. Noi stiamo facendo uno sforzo simile a Roma sulla linea B, per esempio, in quale ci sta con la cattura di valore delle possibili costruzioni da realizzare su terreni limitrofi la finanziabilità della linea metropolitana. Quindi diciamo ci sono mezzi alternativi e il problema nostro è un problema un po' più profondo, è un problema innanzitutto di competenze di diffusione quasi a pioggia della possibilità di autorizzazioni o di negare autorizzazioni, il secondo è un problema di regolamento e di leggi che sono state fatte molte volte, a molte riprese, a molte mani, certe volte in maniera contraddittoria, che quindi non contribuiscono a rendere semplice e liquido il mercato delle infrastrutture. Ma mi dica una cosa, in conclusione, pesa di più l'assenza dei soldi pubblici o l'insieme di procedure burocratiche che poi non permettono ai privati di entrare? Cioè, come impatto economico, secondo lei? Come impatto, secondo me, è l'eccesso di regolamentazione. Noi siamo un paese oggi, l'Italia in particolare, ma l'Europa tutto, il mondo civile occidentale, che si è dotato di un tale strumento di regolamenti e di norme da soffocarsi. Se lei vede le uniche economie nel mondo che oggi sono in inversione di tendenza rispetto alle nostre, quindi diciamo rispetto a una sorta di arresto della crescita, sono economie che hanno poche regole chiare, ma poche. Quindi lei dice, no, perché quello è il tema interessante delle riforme a costo zero, cioè la sburocratizzazione certo permetterebbe, se ho ben capito il suo ragionamento, l'ingresso più facilmente dei privati nel settore costruzioni, senza quindi aver bisogno di aspettare i soldi pubblici, ma almeno levassero i vari passaggi burocratici, perché nessuno parla di levare i controlli. Ma no, i controlli no, diciamo che noi dobbiamo però imparare a controllare forse i fenomeni principali e soprattutto le cose che realmente interessano. Noi invece ci siamo dotati di un sistema di controllo capillare che controlla forse tutto, non si sa bene chi controlli tutto quello che abbiamo predisposto per essere controllato e neanche bene cosa ci faccia con tutto questo asset di controllo. Alla fine abbiamo un sistema incredibile per assegnare un'opera a un qualsiasi realizzatore e nessuno si fa la domanda se poi alla fine l'opera viene realizzata o meno, in che tempi e a che costi finali. Ecco, sul fronte estero, visto che appunto voi avete molto investito lì, dove sono arrivati gli ordini più importanti? Dov'è che voi notate un movimento più forte quanto a crescita economica nel settore infrastrutturale? La crescita è importante, noi ce l'attendiamo dal continente africano, che è il continente nel quale noi da oltre 60 anni operiamo con successo e nel quale crediamo molto. Abbiamo preso adesso per esempio questa grandissima diga in Etiopia, l'ultima, la Millennium Dam, che è la decima diga più grande del mondo, ma data dall'uomo, e che consente al paese di diventare un esportatore netto di energia pulita in un'area del mondo complicata e in grande crescita. quindi da una parte è fonte di stabilità politica, perché poi alla fine quando si interdipende fra paesi, l'uno come produttore e l'altro come consumatore, è più facile mantenere pace e serenità, e dall'altra invece genera ricchezza. Quindi l'Africa soprattutto? L'Africa soprattutto, certo il sud-est asiatico è un mondo in grandissima espansione. Noi abbiamo operato anche in Cina facendo la diga di Xiaolandi, l'impianto del diretto di Xiaolandi. Adesso stiamo operando per esempio in Malesia, abbiamo vinto recentemente questa diga di Rugelai, un'altra opera idroelettrica importante, e quindi ci attendiamo buone sorprese da quella parte del mondo. Diciamo oggi, ecco, i principali mercati sono il continente africano, il sud-est asiatico e chiaramente l'America Latina, per quello che può ancora generare da questo punto di vista. Per quanto ci voi sia. Quando fate queste dighe portate anche tecnici italiani lì? Come no, certo, portiamo molta manodopera italiana. Diciamo, non come si usava una volta, in cui il cantiere era interamente italiano, oggi chiaramente è solamente una componente, che è quella storica, di persone che si muovono, ma insomma, diciamo, c'è sempre una forte presenza italiana e certamente una grande area d'Italia che si respira in quei paesi e che fa bene al cuore, insomma, quando si va a vederle. Allora, in bocca al lupo a lei, come diciamo sempre a tutte le aziende che invitiamo nel programma. Grazie a Pietro Salini, ministro delegato del gruppo Salini. Grazie a voi, arrivederci. E dopo il traffico, adesso di nuovo l'appuntamento con la finanziaria, di cui la cosa più certa è il valore complessivo, 43-47 miliardi, le ultime novità emerse, Italia agli enti locali da 10 miliardi nel biennio 2013-2014, e poi però anche il ticket da 2012 di 10 euro su visite e analisi, 25 euro per i codici bianchi e pronto soccorso, ne parliamo dopo il traffico. Allora, in attesa della conferenza stampa del ministro Monti, ci sono già le prime reazioni. Poco fa l'ANCI, cioè i comuni italiani, il cui organismo direttivo sta ancora verificando i contenuti della manovra finanziaria, però è uscito con una notizia. Ha detto: nel caso in cui corrispondessero al vero il taglio del fondo di riequilibrio e altre notizie circolate, aggiuntivo rispetto a quello prodotto con la manovra del 2010, si decreterebbe la chiusura dei servizi comunali e il federalismo arriverebbe al capolinea. Il titolo dell'agenzia è: secondo i comuni italiani, se le indiscrezioni sono vere, il federalismo è finito. Si riferisce ai tagli agli enti locali da quasi 10 miliardi di euro nel biennio 2013-2014. I tagli però non riguarderebbero gli enti virtuosi. Comunque, facciamo un punto provvisorio. Siamo tutti provvisori in questo mondo, ma lo facciamo per quello che si è riusciti a sapere fino adesso. Il nostro approfondimento è provvisorio perché è in divenire, mentre da domani fino a domenica, ricordo che su Sole 24 Ore vi saranno tre numeri speciali dedicati alla nuova manovra economica del governo, chiarimenti, analisi, pro e contro, 16 pagine. Appunto, primo speciale in edicola domani, venerdì 1 luglio, poi sabato 2 luglio, domenica 3 luglio, con la pubblicazione anche del testo integrale della legge. Contribuirà a questi speciali anche il collega del Sole 24 Ore, Dino Pesole. Dino, buonasera. Buonasera Sebastiano. È vero che scrivi anche tu? Beh sì, adesso sono davanti a Palazzo Chigi e quindi quello che... E quindi non scrivi? Però diciamo, tra un po' andrò a scrivere, spero. Ecco. Dai, ti liberi tanto, tra 10 minuti è finito anche il programma. No, vorrei capire invece le ultime novità, perché allora l'eventuale aumento dell'IVA è rimandato al 2013. Il super bollo per auto sopra 125 kW di potenza, 670 cavalli, dovrebbe esserci, no? Beh, l'IVA sì, l'IVA è nella legge delega. Peraltro io ne ho visionato un testo poco prima di arrivare qui a Palazzo Chigi, e in effetti è confermato che c'è un intendimento di mettere mano anche all'aliquota dell'IVA, ma in un percorso triennale, perché la delega, questo è l'orizzonte che avrà. L'altra novità, che invece credo sia una novità assoluta, è che sarà anche previsto un concordato preventivo biennale per gli esercenti, dunque anche per piccoli imprenditori, artigiani, commercianti e liberi professionisti, e quindi una riedizione del concordato che già c'era. Questa è un'altra novità della delega, però non del decreto ovviamente. Sanatoria sui contenziosi fiscali al di sotto di 20.000 euro? Sì, questa è la parte fiscale del decreto, fermo restando che stiamo parlando sempre di indiscrezioni. Perché, no, no, certo, però, certo. Ecco, tra un attimo il ministro Tremonti spero ci distribuisca anche delle carte. Comunque sì, sono le anticipazioni di questi giorni, ci dovrebbe essere anche la sanatoria per le liti fiscali, così come si è detto, e anche almeno questa nella bozza cosiddetta di ingresso a Palazzo Chigi, anche questo, diciamo, superbollo per le auto di grossa cilindrata. Però sai, queste sono misure che poi magari entrano e poi non escono, perché in Consiglio dei Ministri si decide di farne a meno. Per il resto dovrebbe essere assolutamente confermato l'aumento graduale dell'età del pensionamento per le donne, ma solo a partire dal 2020 per arrivare al regime. Solo dal 2020, e quello è abbastanza certo, perché è una mediazione di cui si è per la quale si è attivato il ministro anche Sacconi, quindi di persona, quindi credo che sia abbastanza prevedibile, mentre certamente ci sarà, ahimè, per i comuni e per gli enti locali, questa previsione di ulteriore taglio nel 2013-14, che in effetti è molto pesante, perché si aggiunge al taglio dello scorso anno, che fu pesantissimo anche lì, su base biennale per regioni comuni. 9 miliardi in tutto, se non ricordo male, il taglio deciso l'anno scorso, e se ne sommano altri 10 miliardi. Certo, è stata data la possibilità a regioni, province e comuni di incassare più soldi sulle addizionali IRPEF e anche RC Auto, come abbiamo raccontato 3 giorni fa, ma non so se basterà, perché il taglio di 10 miliardi è pesante, non dovrebbe riguardare gli enti virtuosi. Qui si è capito, cioè quello che chiedeva la Lega, i comuni virtuosi che possono spendere sul patto di stabilità interno? Esattamente, questo è una richiesta esplicita della Lega, che peraltro Umberto Bossi già si è ampiamente venduta presso i suoi, quindi mi sembra molto difficile che si torni indietro, ma rientra un po' nello schema di questo decreto, che poi è, come dire, penalizziamo laddove occorre anche la spending review cosiddetta, cioè questo inizio di analisi dei bilanci dei singoli dicasteri, non più tagli lineari, va in questa direzione, perché contemporaneamente si immagina di premiare le amministrazioni virtuose, quindi anche i comuni. In questo senso i comuni che riescono a rientrare nei loro budget avranno dei meccanismi premiali, peraltro non è nemmeno una novità assoluta, perché è già prevista dal patto di stabilità interno, quindi viene rafforzata. C'è una novità che le agenzie hanno battuto in questo ora, non è la fine del mondo, però ve la leggo. Gli impianti di distribuzione dei carburanti, quindi le pompe di benzina, potranno vendere alimenti, bevande, quotidiani, periodici e sigarette. Questo all'interno della razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti. Anche l'obbligo entro un anno di aprire pompe self-service con pagamento anticipato in tutti gli impianti, che dovranno essere funzionanti anche nelle ore in cui è presente il gestore. Va bene. Così ancora, per quello che riguarda il bollo dello 0,15%, imposta di bollo dello 0,15% sulle transazioni finanziarie, bot esclusi, e la tassazione del 35% sull'attività di trading bancario, sembra confermata? Esattamente confermata, fermo restando, come ti dicevo prima, che si tratta però di due percorsi diversi, perché il riordino della tassazione sulle rendite finanziarie con esclusione dei titoli di Stato non è nel decreto. No, perché lo spiego a chi ascolta, cioè il decreto vero e proprio, che quello è immediatamente operativo e deve fare la manovra. Da 2 miliardi quest'anno, 5 miliardi l'anno prossimo e 20 miliardi nel 2013, 20 miliardi nel 2014, quindi negli anni elettorali e per il prossimo governo. Alcuni hanno detto una manovra democristiana, però, e questo è il decreto. Poi c'è il disegno di legge sulla riforma complessiva del fisco, quello che dovrebbe spostare la tassazione dal lavoro ai guadagni da capitale, guadagni da rendita, che però essendo un disegno di legge ha poi bisogno di decreti attuativi, giusto Dino? Per cui parliamo di altri tempi. Infatti il disegno di legge nel dettaglio prevede che i decreti attuativi debbano essere approvati entro 3 anni dall'approvazione del disegno di legge delega da parte del Parlamento. Sarà istituita una nuova commissione bicamerale dei 30, 15-15, esattamente come avvenne per la delega del 2003. Ecco, quindi una cosa che sta facendo molto discutere sono questi 45 milioni di euro, che non è tanto la cifra in sé, dati al Comune di Palermo per garantire la raccolta dei rifiuti. Ma che è? Ne sai qualcosa? Ma dunque, queste sono appunto, fanno parte delle discrezioni che stanno uscendo a raffica, perché solo le bozze che vengono scritte e riscritte, anche perché, come sappiamo, lo ricordiamo agli ascoltatori, l'approvazione di questi decreti legge sull'onda, come dire, anche della fretta dell'emergenza, avvengono fino a questo punto attraverso gli uffici tecnici, poi se ne incarica Palazzo Chigi e poi c'è tutta una fase di riscrittura successiva. Certo. Quindi questa è esattamente un'altra norma, non si capisce bene da quale parte sia. Allora, io dico anche a chi scrive, aspettiamo il testo finale. È vero che di liberalizzazioni se ne vedono poche, anche di privatizzazioni, un pochino sulle riforme a costo zero. Vedremo i 45 milioni di euro per il comune di Palermo. È vero che a questo punto, per quello che riguarda le quote latte, questo ve lo posso confermare da quello che si è capito, non più rinvio ma stop to cure, quindi alla riscossione delle multe per le quote latte. Dino Pesole, in attesa della conferenza di Giulio Tremonti, ti auguro buona serata, così grazie. Come l'auguro a tutti i nostri ascoltatori. C'è un'ultima agenzia che vi leggo, Emma Marcegaglia ha risposto poco fa alla lettera di Sergio Marchionne che aveva detto: se non cambiano i contratti usciamo dal Confindustria. A noi sembra, ha detto Emma Marcegaglia, che l'accordo di ieri soddisfi anche le vostre istanze. Rivolta alla Fiat, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.